Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Luigi Pirandello, in un suo celebre saggio, afferma che l'umorismo è come una creatura a due teste, in cui una ride del pianto dell'altra. È una definizione che descrive perfettamente la bellezza e insieme la tragicità del mestiere dell'attore, di quello comico in particolare, che deve mostrare il suo volto ilare, felice e divertente, anche quando dentro di sé c'è qualcosa che urla, che sanguina, una profonda sofferenza che chiede di uscire e di essere gridata. È proprio il contrasto che fa grandi gli attori che sanno passare dal tragico al comico e riescono a coltivare il proprio disagio interiore, come conferma un grande interprete italiano, Carmelo Bene. Bisogna fare di sé dei capolavori. Io ho trovato da molti anni, da molti millenni in me, il deserto. E quindi solo è un deserto che parla a un altro deserto. E non più al deserto dell'altro. Non ho più un manc o un mancato. Ho un mancato. Tutto qui. La storia dello spettacolo è ricca di esempi di questo tipo. Da Charlie Chaplin a Vittorio Gassman, da Buster Keaton a Andy Kaufman, non si contano esempi di grandi attori brillanti in possesso di un lato tragico o di attori tragici che hanno poi scoperto un lato comico. Molti, moltissimi fra questi attori hanno saputo esprimere la propria dimensione tragica a causa di una porzione della propria vita profondamente infelice, che ha lasciato in loro ferite profonde e impossibili da rimarginare. Il grande Stanislavski, autore di uno dei più celebri metodi di recitazione, ha scritto: l'attore non recita le parole ma i sentimenti, perché la parte è fatta non di parole ma del sottofondo affettivo. È quella la parte nascosta da scoprire dell'attore. La storia che vi raccontiamo oggi ha per protagonista uno di questi straordinari attori dai due volti. Un uomo che sa farsi amare per il suo irresistibile lato istrionico e per il suo trasformismo, in grado di caratterizzare personaggi comici strepitosi. Ma anche una maschera, in grado di lasciare emergere con una breve, semplice, quasi impercettibile espressione gli abissi di tragicità di cui è capace. La sua vita si incrocerà con quella di un grandissimo regista di cinema, uno dei più grandi di sempre, il quale tirerà fuori da questo attore magnifico il meglio e lo cambierà per sempre. Iniziamo proprio dal nostro attore. È inglese e il suo nome è Peter Sellers. Peter Sellers. L'Inghilterra tra gli anni 10 e gli anni 20 ha prodotto un'infornata di attori che hanno segnato la storia del cinema. David Niven, Alec Guinness, Christopher Lee, Peter Cushing. Grandi nomi, i cui volti rimarranno per sempre nell'immaginario collettivo. David Niven è forse l'attore british per definizione. Elegante, flemmatico, impeccabile sia nel registro tragico che in quello comico. Guinness, invece, è un volto più istrionico e poliedrico che trova consacrazione con il suo Obi-Wan Kenobi di Guerre Stellari. Ti stavo aspettando, Obi-Wan. Ci rincontriamo finalmente. Ora il cerchio è completo. Quando ti ho lasciato non ero che un discepolo. Ora sono io il maestro. Solo un maestro del male, Darth. Lee e Cushing, invece, devono la loro fama allo stesso leggendario personaggio, Dracula. Negli anni 50, infatti, nei celeberrimi horror prodotti dalla Hammer Movies, i due attori si scontrano nella serie di film dedicati al Principe delle Tenebre, raggiungendo la notorietà presso il grande pubblico. Tra questi, però, Peter Sellers avrà un ruolo del tutto particolare. Forse di questo gruppo sarà il più grande, ma per una serie di motivi che scopriremo insieme, non godrà mai di quel credito che avrebbe meritato. Peter Sellers nasce nell'Hampshire, a sud di Londra, l'8 settembre 1925. La sua è una famiglia che stimola il suo lato artistico. Papà Bill e mamma Agnes sono artisti di varietà, viaggiano molto per lavoro e immergono il giovane Peter nel clima dello spettacolo. I suoi genitori sono molto uniti, divisi solo dalla religione. Il padre è cattolico e la madre ebrea. Come sempre accade in quegli anni, il padre decide dell'educazione religiosa dei figli. Così il piccolo Peter viene mandato in una scuola cattolica. I primi talenti che il futuro attore mette in mostra riguardano la musica. Balla, canta, suona la batteria. Si cimenta addirittura con l'ukulele e con il banjo. È Scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Peter è un giovanotto di belle speranze, uno studente aspirante artista che non ha ancora costruito nulla di certo e di solido. Nel 1942, così, si arruola nella RAF. Sono migliaia in questi anni i giovani che si arruolano nella Royal Air Force, spinti dal celebre discorso con cui Churchill richiama il paese a una strenua difesa dell'isola. We shall never surrender. La battaglia d'Inghilterra prima e i bombardamenti della Germania dopo impegnano gli aviatori inglesi in missioni pericolose e di delicata importanza. Anche questa parentesi militare dimostra che le contraddizioni del grande Sellers si notano soprattutto dai vari episodi della sua vita. Peter si arruola nella RAF, diventa caporale, ma è miope. Non proprio un problema da poco per un aviatore. Così durante le operazioni belliche viene impiegato nel personale di terra. E anche in un contesto così tragico viene impiegato a fare ciò che sa far meglio, far ridere. In questo periodo, infatti, Sellers entra a far parte dell'Entertainment National Service Association, l'ente che si occupa dell'intrattenimento dei soldati impegnati in guerra. Qui può sfoggiare i suoi numeri e collaudare alcuni personaggi, alcune maschere e alcune canzoni che in seguito lo renderanno celebre. My happy arms will hold you and someday I'll know that moment divine when all the things you Dopo il congedo, Sellers entra a far parte del cast di uno dei più celebri show radiofonici dell'Inghilterra, The Goon Show. The Goon Show è una delle trasmissioni comiche inglesi più celebri di tutti i tempi. Prodotta e trasmessa dalla BBC, viene messa in onda per la prima volta nel 1951 e ottiene immediatamente un successo strepitoso. Ideato dallo scrittore satirico Mike Milligan, The Goon Show è un folle contenitore di storie, piccole narrazioni seriali, che hanno per protagonisti surreali personaggi che prendono a cannonate alcuni aspetti dei costumi britannici. Andrà in onda per 10 anni e sarà fondamentale per una buona fetta della cultura popolare britannica. I Monty Python, per fare un esempio, hanno sempre esplicitamente dichiarato di essersi ispirati al travolgente show ideato da Milligan. Il modo in cui Sellers riesce a farsi ingaggiare è bizzarro e straordinario. Chiama da una cabina la BBC e si fa passare uno dei produttori più potenti, Roy Spear. Come? Utilizza le sue straordinarie doti di imitatore e finge di essere Kenneth Horne, una star della radio. Così ottiene un'audizione e di conseguenza un lavoro. In realtà è andata così. Quando sono riuscito a farmi passare questo potente produttore della BBC, gli ho parlato come se fossi Kenneth Horne e mi sono raccomandato. Ho detto, sa, c'è un giovane, si chiama Peter Sellers, meriterebbe una chance, può sentirlo? Così mi sono, in un certo senso, raccomandato da solo. All'inizio degli anni 50 Sellers registra alcuni dischi. Sono dischi che appartengono a un genere molto particolare, decisamente in voga all'epoca, raccolte di sketch radiofonici. Nel suo show per la BBC e in questi siparietti raccolti sul vinile, Sellers accumula personaggi su personaggi. Trasforma voce, intonazione, scrive testi e battute fulminanti. Riesce a rendere perfettamente attraverso il medium radiofonico quelle capacità trasformistiche che lo renderanno famoso. Ascoltandolo, ce lo si immagina. Appaiono vivide e nitide le sue espressioni, le sue smorfie. Sellers sembra possedere una capacità evocativa straordinaria, come lui stesso conferma in un'intervista. Non so, ho sempre avuto questa predilezione per il trasformismo. Mi ha sempre affascinato l'idea di possedere diversi alter ego, tutti diversi, ciascuno dei quali magari in grado di esasperare alcuni lati del mio carattere e alcuni difetti. È una cosa che mi ha sempre attratto. Negli anni 50 il grande successo a livello nazionale arriva al cinema con una serie di commedie brillanti. Come in molti paesi occidentali, anche in Inghilterra nei 50s, la voglia di ripresa si manifesta attraverso la crescita dell'industria dello spettacolo. Nel settore cinematografico, per ciò che riguarda le commedie, grande importanza maturano gli Ealing Studios, che nel 55 saranno rilevati dalla BBC. ma che fino a quella data sfornano commedie che riscuotono grande successo. Alcuni titoli? La signora Omicidi, in cui Sellers interpreta la parte di un gangster maldestro. Il ruggito del topo, primo film in cui ricopre più parti, si trasforma, si traveste. E La battaglia dei sessi, per fare un altro esempio. Sono stati film importanti perché mi hanno permesso di familiarizzare con alcuni meccanismi del cinema che mi sono ampiamente serviti in seguito. In queste commedie, Sellers utilizza elementi costruiti negli anni con i suoi vari personaggi. Li fonde, li mette insieme, contamina, sperimenta. Riesce a creare figure memorabili, profonde e divertenti al tempo stesso. Sono anni in cui, però, con l'arrivo dei primi successi, inizia a delinearsi anche il lato oscuro di Sellers, la profonda complessità della sua personalità. Sbalzi d'umore improvvisi, repentini, attacchi d'ira verso collaboratori e amici, quasi senza giustificazione. Il lato comico di Peter è a volte così fulminante che si raccontano episodi assolutamente esilaranti. Sul set di Il ruggito del topo, ad esempio, a camere spente, Peter improvvisa uno sketch e la troupe è incapace di riprendere a girare perché nessuno riesce a smettere di ridere. Altrettanto spesso, però, questo fulminante senso della comicità si rovescia nel suo opposto, nella furia. Gli capiterà spesso, nel corso della sua carriera, di aggredire registi e altri tecnici senza apparente motivo, per una parola anche insignificante detta fuori posto o perché semplicemente la giornata è nata storta e sembra avere un peso insostenibile. A volte in Peter Sellers la luce si spegne all'improvviso, in una sorta di disperazione che affiora insieme a una malinconia di fondo presente anche nella sua comicità. E forse la cupa tristezza di chi ha smarrito se stesso dentro il proprio lavoro. Lo stesso Sellers, in una celebre intervista televisiva, offre una chiave di lettura. Gli viene posta una domanda forte da un giornalista. Lei ha sempre interpretato decine di personaggi. Chi è però il vero Peter Sellers? Il volto dell'attore si fa scuro. Gli occhi si riempiono di lacrime. E arriva la risposta. Io non lo so. In queste parole c'è tutto il dramma del mestiere dell'attore comico, la sua schizofrenia, il suo strabismo interiore. C'è anche però la grandezza di Peter Sellers, la ricchezza di sfumature di cui era capace la sua recitazione. Sempre nei 50 inoltre, Sellers si sposa. Sarà il primo di 3 matrimoni, a testimonianza di una profonda turbolenza anche in ambito sentimentale. La prima moglie si chiama Anne Howe e gli darà 2 figli. A questo primo nucleo familiare è legato uno degli aneddoti più spiacevoli che descrivono il carattere di Sellers. Quando alla fine del decennio Sellers sta per divorziare, per timore di perdere i favori dei figli, prende da parte il primogenito di 7 anni e gli racconta che la mamma ha una storia con un altro uomo. Una cosa non vera. Anni dopo, in un'intervista televisiva con Robert Parkinson, Sellers ammetterà: i miei matrimoni sono stati molto difficili, per varie ragioni, ma soprattutto per una. Penso che sia tutt'altro che facile vivere con me. La seconda moglie sarà Britt Ekland, modella e attrice svedese che Sellers sposa dopo un furioso corteggiamento a Sophia Loren, conosciuta in un set e con la quale però inciderà un gustoso duetto canonico. But your complaint has got me really Oh, oh, doctor, touch my fingers. Well, goodness gracious me. You may be very clever, but however can't you see? My heart beats much too much at a certain tender touch. It goes boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom. Well, goodness gracious me. La Loren e Sellers si conoscono sul set di La miliardaria di Anthony Asquith, che vede anche Vittorio De Sica nel cast. Sellers perde letteralmente la testa, ma la Loren, che fa coppia con Carlo Ponti, pur affascinata dallo straordinario umorismo di Sellers, rifiuta fermamente le sue avances, generando in lui grande sofferenza. Britt Ekland, invece, è un'attrice svedese che ha raggiunto la notorietà in Italia grazie a film come Il Comandante e Caccia alla Volpe di De Sica. Si sposa con Sellers nel 1964. L'attore l'aveva cercata e contattata qualche anno prima, dopo essere rimasto folgorato da alcune foto che aveva visto su un giornale. Sellers e la Ekland hanno una figlia, Victoria, nel 1965 e appaiono insieme sul grande schermo proprio in Caccia alla Volpe e in Il Magnifico Bobo. ma il loro idillio amoroso è destinato ad avere breve durata. La storia con Britt Ekland finirà a causa dei continui scoppi di immotivata gelosia da parte dell'attore britannico. Si sposerà una terza volta, alla fine degli anni 70, con Lynn Frederick. Ma Sellers avrà anche altri problemi di cuore, problemi cardiaci veri e propri, che mineranno la sua salute e lo tormenteranno a partire dagli anni 60. Ma siamo già oltre il nostro incrocio. Torniamo sul finire degli anni 50, quando Sellers è ancora soltanto un buon attore brillante che ha conquistato un discreto successo in Gran Bretagna, grazie a una serie di commedie cinematografiche che riscuotono buoni consensi in gran parte d'Europa. Alla fine del decennio arriva l'incontro che gli cambia la vita, che lo proietta nell'Olimpo degli attori immortali, che amplifica la sua fama fino a farla arrivare oltre oceano. Un regista che riesce a isolare il suo lato oscuro, a tirarlo fuori e a utilizzarlo, e ad estremizzare ulteriormente le sue doti camaleontiche. Chi è? Lo scopriremo tra poco. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati raccontiamo di un attore e di un regista che si fanno grandi a vicenda. A rendere la storia particolare, prima di tutto, il fatto che sono due tra i più straordinari artisti della storia del cinema. E poi, soprattutto, per il camaleontico attore di cui stiamo parlando, l'incontro con il grande regista costituisce un crocevia fondamentale per la sua carriera e per la sua vita. L'attore è Peter Sellers, e ve ne abbiamo già raccontato la storia. Il regista è il grande Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Sono nato a New York nel 28. Mio padre era un dottore. Ho una sorella, che è sposata e ha due figli. È una delle rare interviste di Stanley Kubrick, considerato uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Kubrick era un uomo difficile, poco incline ai rapporti sociali. Secondo alcuni, un vero e proprio misantropo che negli anni si è posto in una condizione di esilio e si è progressivamente emarginato. Superficialmente il contrario di Peter Sellers e della sua irrefrenabile estroversione. In realtà, nel profondo, tra i due ci sono più somiglianze di quanto possa sembrare. La mia prima passione sono stati gli scacchi. Ho iniziato a giocare quando avevo 12 anni. A 17 anni sono diventato piuttosto bravo e sono entrato in un club. Gli scacchi. Ordine, razionalità, rigore. Non c'è metafora più calzante per la visione del mondo di Kubrick, che intorno ai 20 anni non si indirizza verso il cinema, bensì verso la fotografia. Negli States, negli anni 20, si era sviluppato il movimento della straight photography. L'assunto di fondo di questo movimento era: qualunque cosa in grado di alterare la fotografia rende automaticamente meno puro lo scatto, e quindi meno vero. È la nascita, la teorizzazione della fotografia documentaristica, del reportage per immagini. Arte e realtà si fondono in un'unica soluzione, come afferma il teorico del movimento, Lewis Hine, in una celebre suggestiva affermazione. Mentre la fotografia non può mentire, i bugiardi possono fotografare. Un altro grande fotografo, Walker Evans, descrive bene le nuove tendenze realiste. Documentaria è la fotografia della polizia scattata sul posto di un delitto. Quello è un documento. Vedi bene che l'arte è senza utilità, mentre un documento ha un'utilità. Per questo l'arte non è mai un documento, ma può adottarne lo stile. È quello che faccio io. Kubrick si appassiona alla fotografia sull'esempio di questo movimento. Inizia a fotografare. Nel 1945 fotografa un venditore di giornali in lacrime il giorno dopo uno degli eventi tragici degli States degli anni 40, la morte di Roosevelt. Interrompiamo la trasmissione per comunicare una notizia tragica. Il presidente Franklin Roosevelt è morto in Georgia a causa di un'emorragia cerebrale. Quello scatto è il primo a riscuotere successo e interesse e ad essere acquistato dalla rivista Look. Il passaggio al cinema avviene, come spesso accade, in seguito a un incontro che Kubrick fa a New York, al Village, quando si trasferisce lì in seguito al suo primo matrimonio. Lì conosce Alexander Singer, che diventerà a sua volta regista, anche se decisamente di minor conto, e che al momento fa anch'egli il fotografo per la rivista di cinema March of Time. I due decidono di portare sullo schermo un primo esperimento documentaristico, Day of the Fight, dedicato alla vita del pugile Walter Carter, su cui Kubrick aveva fatto un servizio per Look. Insieme ad Alexander Singer, Kubrick gira altri due documentari, Flying Padre, su un prete del Nuovo Messico che ha una parrocchia talmente grande da doverla sorvolare in aereo, e The Seafarers, su un sindacato di marinai. Kubrick fa cinema in maniera assai diversa da come concepiva la fotografia, inquadrature ricercate, quasi barocche, sperimentazioni. I suoi film non passano inosservati e vengono acquistati dalla RKO, dando il via di fatto alla sua straordinaria carriera. I don't like cigarettes. Come fanno molti registi alle prime armi, i primi film narrativi del regista newyorkese vengono finanziati attraverso una raccolta di fondi realizzata tra amici e parenti. Fair and Desire e Il bacio dell'assassino sono prodotti con pochi dollari racimolati con un po' di fortuna. In questi primi film mi è servita moltissimo l'esperienza come fotografo. Riuscivo a curare le luci e le inquadrature nei minimi dettagli. E questo sul piano formale era importante. Infatti questi film non passano inosservati. Un produttore che si chiama James B. Harris li nota e lo presenta alla United Artists. Arrivano i primi soldi, quelli per lo splendido Rapina a mano armata, un poliziesco crudo e appassionante. Lo so, bella, i soldi ti piacciono e forse al posto del cuore è un grosso dollaro d'argento. Si delinea la visione del mondo di Kubrick e la sua visione del cinema. La prima è cupa e pessimistica, la seconda creativa e rigorosa. Una parte fondamentale del suo modo di intendere il cinema la ricoprono gli attori, che diventano essenziali per esprimere al meglio le sfumature legate alle storie che scegli di raccontare. Con gli attori Kubrick ha da subito un rapporto turbolento e problematico, destinato ad inasprirsi negli anni, con un'unica eccezione, Peter Sellers. Il primo attore celebre con cui Kubrick stringe un rapporto professionale è Kirk Douglas. Si incontrano sul set di Orizzonti di Gloria. Colonnello. Sì, sergente. Ordine di trasferirci al fronte immediatamente. Di ancora qualche minuto agli uomini. Signor, sì. I due collaboreranno ancora sul set di Spartacus, in cui Kubrick subentra un altro regista, William Wyler, cacciato proprio per problemi con Douglas, che si esprime così sul regista americano. Non è necessario essere una persona simpatica e piacevole per essere estremamente dotato di talento. Si può essere uno stronzo ed essere talentuoso, come al contrario si può essere la persona più piacevole e simpatica senza avere alcun talento. Stanley Kubrick è uno stronzo di talento, schiacciato da un ego napoleonico. Un ego che lo porta a contrasti aspri anche con Marlon Brando. Nel 1961 iniziano le riprese di I due volti della vendetta. Kubrick dirige, Brando recita. Passano due settimane e la star passa anche dietro la macchina da presa. Kubrick abbandona il set per le continue liti con l'attore. All'inizio degli anni 60, il cinema americano deve affrontare un nuovo nemico, la televisione. La TV in America c'era già da molto tempo, ma è alla fine degli anni 50 che diventa un fenomeno di così larga diffusione. Le strategie dei produttori sono due. Alcuni si buttano sui colossal, altri sulle produzioni indipendenti. Kubrick, dopo un colossal come Spartacus, decide di investire dei soldi insieme a un produttore indipendente per fare il suo film e compra i diritti di un romanzo capolavoro del Novecento, Lolita di Nabokov. E sul set di Lolita avviene qualcosa di strano. Un incontro con un attore con cui incredibilmente si crea piena sintonia. È incredibile perché Kubrick, ancora considerato un giovane autore, ha già fama di essere un mangiattori. È incredibile perché Sellers, che è considerato un giovane attore, è noto per le furibonde liti con i registi che lo dirigono. Ed è incredibile anche perché, superficialmente, i due sono apparentemente opposti. Nonostante questo, gireranno insieme due film destinati a cambiarli. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati raccontiamo l'incontro tra Stanley Kubrick e Peter Sellers. Due uomini in apparenza diversi e incompatibili. Invece, nel 1962, si incontrano sul set di Lolita. Sellers diventerà di fatto l'unico attore con cui Kubrick non avrà problemi. Kubrick, l'unico regista che l'attore britannico risparmierà dai suoi sconvolgenti cambi d'umore e dai suoi attacchi di isteria. Il risultato di questa impensabile sinergia cambia la carriera di entrambi. Lolita è uno dei romanzi più significativi e importanti del secondo Novecento. Autore è Vladimir Nabokov, russo naturalizzato americano. Kubrick chiede direttamente allo scrittore di scrivere la sceneggiatura del film. Avevo scritto una versione di circa 400 pagine, troppo lunga. Poi ne scrissi un'altra lunga circa la metà. Nel film è rimasto circa il 30% di quello che ho scritto, ma la rielaborazione che ne ha fatto Kubrick è piuttosto fedele allo spirito del romanzo. Per questo ho firmato i credits. Il personaggio più importante di Lolita è forse quello di Kilty, un commediografo che la giovane Lolita conosce in una scuola di teatro e che la porterà via dal professor Humbert, ossessionato da lei. Kilty è un personaggio camaleontico che cambia continuamente aspetto e travestimento. Chi meglio di Peter Sellers può ricoprire questo ruolo? Io non ho spiegato mia idea chiaramente. Io ho altri particolari che le vorrei esporre, dottor Umbers. Ecco, è sgarbata e scontrosa. Sospira parecchio in glass, sospira, fa suono come... Per interpretare al meglio i vari travestimenti di Kilty, Sellers riversa nel film i suoi irresistibili personaggi, ma riesce a mettere in loro qualcosa di sinistro. C'è una luce inquietante nel suo personaggio, qualcosa di malefico, una tonalità nuova nella sua recitazione, una vena che Kubrick è riuscito a individuare. Anche Kubrick si giova della performance di Sellers in una sorta di scambio alla pari. C'è un elemento di commedia nel suo film che prima era totalmente estraneo e che è interamente legato a Sellers. L'attore britannico gli fa scoprire il grottesco. Nasce l'idea del film successivo, che li vedrà ancora insieme e li consacrerà entrambi. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.